Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 31 maggio 2015. I distretti digitali lanciano l'e-commerce italiano. Il Made in Italy si compra online. L'Italia dell'e-commerce è ancora un po' in ritardo rispetto alla media europea, ma grazie all'accelerazione degli ultimi anni sta recuperando. La scelta del governo di dare vita ai distretti digitali, che aggregano imprese collocate in aree diverse ma che realizzano comuni strategie digitali, ha permesso negli ultimi 3 anni di colmare in parte il ritardo del settore e anche sul mercato interno, cresciuto oggi ad oltre 20 milioni di acquirenti, si è ridotto il peso delle importazioni. Lo sviluppo del commercio online è così diventato uno dei driver più importanti della ripresa dell'economia nazionale, contribuendo a creare decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Fin qui la notizia del 31 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. I dati resi noti da Netcom, consorzio del commercio elettronico italiano, rivelano che l'e-commerce nazionale cresce intorno al 20% annuo, ma è in ritardo rispetto al panorama europeo sia in termini di acquirenti sia in termini di imprese attive, con un eccesso di importazioni dall'estero. Qualcosa sta cambiando con una nuova attenzione dei grandi gruppi per questo canale. Inoltre, diffusione del mobile e forza del Made in Italy restano ottime armi per recuperare, ma ora, spiega il presidente di Netcom, Roberto Liscia, bisogna creare i distretti digitali. L'agenda digitale a livello europeo ha posto un obiettivo importante che dichiara che le imprese che vendono online nel 2015 dovrebbero essere a livello europeo il 33% delle imprese. L'Italia è molto indietro rispetto a questo obiettivo. Solo il 4% delle imprese italiane vendono online. Il ritardo è dovuto all'incapacità delle imprese, anche per dimensione e per cultura, di sviluppare piattaforme elettroniche per questo sviluppo. Quindi bisogna in qualche misura aggregare le imprese per permettere a questa aggregazione di rinnovare, diciamo, l'accesso a queste tecnologie. Bisognerebbe che in qualche misura il governo e, diciamo, gli enti istituzionali facessero un'operazione che è stata fatta a livello locale nel passato, perché la forza dell'Italia è stata nei distretti. Distretto vuol dire superare il nanismo delle imprese attraverso una capacità collettiva di creare valore, volume e struttura produttiva. Oggi bisognerebbe avere il coraggio di ricreare una nuova dimensione distrettuale basata su dei distretti digitali che in qualche misura compensi il nanismo delle imprese ma riaggreghi le imprese per la loro complementarità sia in termini di prodotto che di progetto che di processo. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.